Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi puntata di eccezione. Vi racconteremo come cinema e musica descrivono sia la non meritocrazia imperante nel bel paese, legata a doppio filo al fenomeno della raccomandazione all'italiana, sia la fuga in massa dei talenti, effetto diretto di questa situazione. Intervisteremo al proposito Caparezza, autore di Goodbye Malinconia, ma c'è anche un'altra prima assoluta per Giovani Talenti. Vi portiamo in Austria per parlarvi di giovani geologi che espatriano, anche loro devono fare le valigie, lasciandosi alle spalle, ironia della sorte, un paese a continuo rischio idrogeologico. All'estero rispondono e come? Non solo rispondono, ma anche se uno semplicemente manda un curriculum, comunque uno una risposta la riceve. E a me è una cosa che in Italia non è mai neanche lontanamente capitata. Nicola Levi, 38 anni, è un geologo strutturale per la multinazionale Fronterra in Austria. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Cinema e musica in primo piano oggi. Di come e perché la musica tratta il tema della fuga dei cervelli parleremo tra poco con Caparezza. Per cominciare apriamo però col cinema. C'è chi dice no, da pochi giorni in sala denuncia la piaga dei raccomandati, uno dei mali endemici che spingono decine di migliaia di giovani a lasciare l'Italia per approdare in paesi meritocratici. Paolo Panceri ha chiesto al regista Giambattista Avellino quanto i raccomandati tolgano posti di lavoro e opportunità ai migliori, obbligandoli alla fuga. Questo della raccomandazione è una delle ragioni per cui il nostro paese è bloccato, bloccato socialmente, ma è bloccato culturalmente, ed è un paese vecchio che invecchia, insomma, non permette il ricambio, non permette quella che è la naturale evoluzione e progressione di un paese. È quasi come se fossimo in un paese diviso per caste, come era l'India, e questo credo che sia un problema per l'Italia. E quindi sì, raccontiamo, se vuoi, i nostri tre protagonisti sono un po' quelle persone che voi avete intervistate nei vostri programmi, di cui raccontate le storie. E Marta Cagnola ha visto il film a Milano insieme agli studenti dello IULM. Sentiamo. I nostri professori ci dicono di restare, di lottare, di affermarci e di portarci avanti, di proporci. Però oggigiorno è sempre più difficile. Almeno la nostra impressione è che all'estero ci sia sempre più possibilità che in Italia. Molti miei amici vanno all'estero e trovano lavoro. Io sono ancora qua. Luca Argentero, protagonista di C'è chi dice no. Luca, cosa pensi di queste riflessioni dei ragazzi? Penso che sia una riflessione giustificata, con la considerazione che non è che all'estero queste cose non succedono. La differenza è che qua magicamente cade qualche testa, ma fondamentalmente i grandi baroni rimangono dove stanno. Mi rendo conto che per un ragazzo possa essere demoralizzante. Grande successo sabato scorso per la manifestazione nazionale dei giovani precari, migliaia in piazza, numerosi riferimenti ai temi di questa trasmissione, dalla donna con il cartello "sono in piazza per mio figlio giovane fisico in fuga" ai precari dell'ISPRA "non sparate alla ricerca", ai laureati "110 lode e ho fame", fino ai vincitori di concorso pubblico non assunti dalla pubblica amministrazione, si sono presentati vestiti da vecchi. E che l'Italia non sia un paese per giovani lo dimostrano i dati Infocamere: nell'azienda media prevale il titolare over 70. In 5 anni gli imprenditori junior sono calati del 15,8% e oggi sono appena il 6,9% del totale, mentre la quota degli over 70 è salita all'8,8%. E saranno premiati il 19 aprile all'Aquila i vincitori di Idea al Futuro, progetto promosso da Accenture e dedicato ai giovani talenti delle scuole superiori abruzzesi, promotori di idee innovative. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una consigliere legale signora alla GESAC, all'Unione Europea degli Autori e Compositori, sede di Bruxelles, scadenza per i CV 30 aprile, info su gesac.org. Un direttore amministrazione finanze all'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, Francia, scadenza per i CV 27 aprile, info su yark.fr. E infine un professore di astronomia all'Università Inglese di Oxford, a scadenza per i CV 13 giugno, info a professorships@admin.ox.ac.uk. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta a Vienna, capitale dell'Austria. Anche i geologi lasciano l'Italia. Nome: Nicola. Cognome: Levi. Età: 38. Città di origine: Pisa. Studi: dottorato di ricerca. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2008. Per andare dove? Austria. Perché? Per avere un futuro migliore. Quale lavoro svolge attualmente? Sono un geologo strutturale per un'azienda indipendente che opera nella ricerca di idrocarburi. Dove? Vienna. Tornerai? Forse sì, ma non ora. To the light, to the light, to the light. Il cantante pop austriaco Falco, Out of the Dark, per introdurre la storia di Nicola Levi. E in effetti, Nicola, il tuo espatrio può ricordare un po' l'uscita da un tunnel buio, verso la luce. In Italia il dottorato è visto quasi come qualcosa di negativo, perché hai perso 3 anni bighelonando all'università anziché lavorare. Le aziende vogliono gente giovane ed economica da formare. Qui in Austria invece i titoli di studio e i curricula sono valorizzati. In molte aziende del settore quasi tutti i manager hanno un PhD. In Italia questo titolo non ha alcun valore e tu così te ne sei andato, Nicola. Questo c'è scritto a giovanitalenti@radio24.it. Ciò che ti chiedo io invece è: ti sei fatto una ragione del perché l'Italia disprezzi in questo modo i titoli di studio elevati? Io penso che sia una questione di lungimiranza, cioè penso che le compagnie non riescano a concepire la formazione come un investimento per il futuro, e quindi preferiscono un guadagno immediato con delle persone giovani ed economiche piuttosto che non delle persone che hanno già un'esperienza e che quindi costano un po' di più. Partiamo dall'inizio. Ti iscrivi alla facoltà di geologia strutturale all'università di Pisa. Perché questa scelta e cosa ti ha spinto verso una facoltà così al di fuori dai sentieri più battuti dai tuoi coetanei? A me sono sempre piaciute le scienze naturali, la vita all'aria aperta, l'idea di fare un lavoro che mi portava ad andare a viaggiare, ad andare in giro, mi ha sempre interessato. Il lavoro della tesi mi era piaciuto molto, ma dopo il dottorato è iniziata la penosa via dei vari postdoc a Pisa tra CNR ed università, scrivi a Giovani Talenti. Ma di ricerca, quella vera, denunci, ne facevi poca. Non dico niente di nuovo se dico che non ci sono fondi pubblici destinati alla ricerca. E quindi i gruppi di ricerca si devono inventare delle altre maniere per tenere le persone che giudicano di valore. E quindi ci si inventano convenzioni, ci si inventano servizi che uno può offrire sul mercato e che permettono di avere i soldi per pagare queste persone. E quindi alla fine io lavoravo 11 mesi all'anno per cose di questo tipo, per avere poi un mese in cui ero libero di fare quello che volevo. Solo un mese è veramente poco. E c'è anche il problema dello scarso collegamento tra università e mondo industriale, giusto? A me è capitato di vederlo soprattutto qui nel confronto con i miei colleghi. Per esempio, a me non è mai capitato durante l'università di dedicare neanche una settimana di lavoro con i software che poi vengono utilizzati nell'industria, mentre invece i miei colleghi austriaci, loro hanno avuto questa esperienza. E c'è anche la questione dei concorsi. Tu non ne hai fatto neanche uno, perché? A parte che in generale i concorsi sono sempre fatti per persone che già esistono, quindi hanno già un nome scritto sopra. Potrebbero metterlo direttamente, perché non lo fanno, uno si chiede, no? Perché manca l'onestà culturale intellettuale per farlo. Sì. Ma non è neanche solo questo, è che poi ai concorsi, visto che le assunzioni sono state molte poche negli ultimi anni, ai concorsi una persona giovane che compete per un posto di ricercatore si trova in competizione con persone magari di 40 o 50 anni con 50 o 60 pubblicazioni che ovviamente hanno i titoli per vincere, giustamente dico. Questo è il quadro della tua esperienza in Italia. Poi però arriva un evento che ti cambia la vita, un piccolo convegno di geologi a Glasgow, dal quale esci con una domanda: ma perché i miei colleghi inglesi lavorano e stanno bene e io no? Raccontaci. La cosa che prima aveva colpito è stato vedere che, per esempio, la persona che organizzava la giornata invitando le varie persone a parlare era uno studente di dottorato di 27 anni. È una cosa che in Italia io non avevo mai visto. Sì, no, è inimmaginabile, potremmo dire. C'è anche una questione, tu poni, insomma, in quello che ci scrivi, cioè la mortificazione professionale per i giovani professionisti italiani, no? Cioè il fatto di non vedere mai riconosciuti i propri meriti, o molto poco. Diciamo che il grosso del lavoro della ricerca nell'università e in generale negli istituti di ricerca è svolto fisicamente dai giovani ricercatori, ma poi quando c'è da prendere una decisione si è sempre chiusi fuori dalla porta. Al ritorno a Glasgow ho detto al mio capo che così non andava più bene, che non c'era bisogno di rinnovare il mio contratto, e il tutto senza rancore. A quel punto scatta la ricerca di un posto di lavoro. Dove ti rivolgi per cominciare? Ho cercato di sfruttare ciò che avevo imparato, di non buttare via quello che avevo imparato negli ultimi anni, e così mi sono orientato verso il settore che più facilmente poteva utilizzare e sfruttare queste conoscenze, che è stato quindi il settore della ricerca degli idrocarburi, della ricerca di petrolio, e in particolare, visto che stiamo parlando del 2007-2008, era un periodo forse il momento di massimo boom di questa industria, per cui c'erano moltissime offerte in questo settore. In quel periodo, e vorrei portare l'attenzione su quello che tu scrivi, sostenni molti colloqui, quasi tutti per lavori all'estero, per lo più colloqui in inglese via telefono, uno solo in Italia e per una compagnia straniera. Ma allora, Nicola, all'estero rispondono? All'estero rispondono, e come? Non solo rispondono, ma anche se uno semplicemente manda un curriculum, comunque uno una risposta la riceve. E a me è una cosa che in Italia non è mai neanche lontanamente capitata. Impossibile. Nicola, alla fine di questo percorso sostieni un colloquio con una compagnia scozzese, dove conosci un italiano che a sua volta ti mette in contatto con una multinazionale americana con sede a Houston e una filiale a Vienna. Qui arriva la sorpresa. Ottieni dal colloquio a Vienna tali e tante garanzie contrattuali che resti di sasso. Ma loro addirittura, quando sanno che tu hai un dottorato, arrivano ad alzare l'offerta quasi scusandosi. Pazzesco, raccontaci. Mi hanno telefonato in Italia riconoscendomi in un certo senso la carriera che avevo fatto dopo il dottorato e dopo l'università, e aumentando, diciamo, l'offerta di loro iniziativa in maniera sensibile, si parla tipo 500 euro in più, una cosa del genere. La compagnia si chiama Frontera, appunto, è una multinazionale americana, e alla fine del 2008 ti trasferisci a Vienna. In due parole, Nicola, di cosa ti occupi ora esattamente? La nostra compagnia, diciamo, che offre tutta una serie di servizi sempre nell'ambito della geologia per le compagnie petrolifere. In particolare, quello di cui mi occupo sono dei dati che si chiamano image logs, che praticamente le compagnie petrolifere acquisiscono, ma che però fanno analizzare ed interpretare all'esterno. L'Italia ha speso milioni di euro per la nostra formazione, di questi investimenti beneficiano altri paesi, una mancanza di pianificazione totale, denunci. In Austria invece tu hai trovato un ambiente giovane dove i giovani si trovano in posizioni manageriali. Ma allora la mia domanda è: ti sei spiegato il perché di questa cultura suicida all'italiana, basata sull'annichilimento professionale dei giovani? Ma io penso che sia una questione culturale. Io penso che le persone che oggi sono nelle posizioni di responsabilità sono cresciute così e quindi replicano quello che loro conoscono e quindi si comportano nella stessa maniera con i giovani. E nessuno purtroppo rompe questa catena. Nicola, domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Da qui l'Italia appare un po' come una cosa un po' immobile. Come immagine, se la dovessi descrivere, mi sembra la rovina di un castello medievale. Forse la cosa più evidente è la mancanza di pianificazione. Una classe dirigente che sappia vedere un po' più lontano che non nei prossimi 6 mesi, magari a 5 o a 10 anni. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Nicola Levi, 38enne geologo strutturale al lavoro in Austria per una multinazionale americana, un dottorato e un postdoc alle spalle in Italia, paese dove le sue prospettive di carriera, però soprattutto nel mondo della ricerca, apparivano molto limitate. Nicola ha trovato così la svolta della vita nel corso di un convegno di geologi in Scozia, dove ha compreso che all'estero le sue possibilità di crescita potevano aumentare e di molto. Al ritorno in Italia ha preso la decisione definitiva, ha rinunciato all'ennesimo rinnovo di contratto e ha inviato curricula soprattutto all'estero. Hanno fatto seguito numerosi colloqui al termine dei quali si è concretizzata la possibilità di un lavoro in Austria. E ci raggiunge ora in linea Gianvito Graziano, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Buon pomeriggio. Buongiorno a voi, buon pomeriggio. Dottor Graziano, le leggo una parte dell'email che Nicola ci ha inviato giorni fa a Giovani Talenti. Ho provato a mandare il curriculum a una grande compagnia italiana e dopo aver passato 20 minuti a riempire il dettagliato formulario online sono arrivato all'agoniata pagina dei titoli di studio, dove il dottorato non era neppure contemplato. Ho avuto la sensazione che il mio dottorato e la mia esperienza di ricerca non valessero proprio nulla, così ci ha scritto Nicola. Allora, Gianvito Graziano, non serve proprio a nulla essere geologo in Italia con una buona formazione accademica, è anche per questo che calano gli iscritti ai corsi di laurea in geologia. Ma guardi, è paradossale dover affermare questo, ma in realtà è quello che succede. Cioè, noi siamo un paese ad altissimo rischio sismico, ad altissimo rischio idrogeologico, ad altissimo rischio vulcanico, tuttavia i geologi ancora oggi hanno pochissimi sbocchi. Abbiamo una grandissima offerta di lavoro a fronte di una pochissima domanda, perché in realtà dopo ogni tragedia poco o nulla si fa. Un vostro rapporto infatti mostra come con 26 geologi ogni 100.000 abitanti l'Italia sia al terzo posto in Europa dopo Grecia e Olanda per la loro presenza, prima della Germania, ma le difficoltà di inserimento professionale appaiono, da Istat e Alma Laurea alla mano, crescenti. Cosa c'è che non va? Andiamo alla radice del problema. Intanto abbiamo un problema di crisi economica globale e quindi generale, che quindi non favorisce ovviamente il mercato. C'è anche un problema a monte, c'è un problema anche di università. L'Italia in qualche modo, attraverso una serie di istituti anche privati, io la definisco, mi perdono il termine, un laureificio. Allora, se abbiamo sfornato tantissimi laureati, in qualche modo oggi questi cercano di trovare lavoro. Manca quella svolta culturale al quale il collega ha accennato e che in realtà sta, secondo me, alla base di tutto il problema. Lei pensa che degli 11 colleghi di Nicola all'epoca del dottorato solo 2 sono rimasti in Italia, gli altri 9 sono sparsi per il mondo, lavorano come geologi oppure addirittura hanno cambiato proprio settore, e i soli 2 rimasti hanno lavori precari pagati in modo discontinuo. È questa la condizione obbligata per chi resta? In un certo senso sì, anche perché le dico, non esiste, mancando un mercato e mancando quella cultura di base, non esiste nessun tipo di premialità. La possibilità per un giovane di inserirsi anche nell'ambito dei lavori pubblici, quindi della commessa pubblica, dei servizi che vengono appaltati, diventa difficilissimo perché i criteri con cui il legislatore individua le figure professionali sono criteri di tipo economico, quindi o grandi società, grandi budget economici o l'aver progettato già opere per di un certo tipo. È chiaro che per il giovane praticamente il percorso è sbarrato, non c'è via di accesso. Non ci dà purtroppo molte speranze. Graziano, si sono create delle caste con gli ordini in Italia, diciamolo. Sì, in linea generale sì, io non faccio ora dei casi specifici, però in qualche modo anche gli ordini hanno rappresentato dei centri di potere. Allora ben venga una riforma delle professioni, che sia una riforma condivisa, modernizzando il ruolo dell'ordine. E aiutando i giovani. Molto aiutando i giovani, mentre diventa molto demagogico dire sempre che si aiuta i giovani, in realtà poi non si fa nulla per farlo. Questo è il paese. In ambito lavori pubblici sono state create una serie di procedimenti fittizi che dovrebbero aiutare i giovani, in realtà non lo hanno mai fatto. Non si riesce neanche a discutere di questi argomenti con il legislatore. Questo è il paese dove a parole purtroppo siamo tutti bravi, ma poi alle parole non seguono mai i fatti. Ringrazio Gianvito Graziano anche per la sincerità delle sue parole e una domanda finale invece per Nicola Levi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Innanzitutto di investire nella formazione e nelle lingue straniere. L'altra cosa è di credere in se stessi e di provare ad andare all'estero, perché all'estero la vita è più facile, ci sono molte più opportunità e comunque sia sarà comunque un'esperienza positiva. Edizione speciale oggi per Spazio Emigranti, inauguriamo un filone sugli artisti e il tema della fuga dei talenti. Lo facciamo con il cantautore che più di ogni altro in queste settimane sta associando il suo nome al fenomeno. Lui si chiama Michele Salvemini, in arte Caparezza, e la canzone è Goodbye Malinconia. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Michele, cosa ti ha spinto a scrivere Goodbye Malinconia? Beh, innanzitutto un viaggio che ho fatto a Londra, dove ho conosciuto in realtà più italiani che londinesi, e questa cosa mi ha un po' strabiliato perché non erano tutti là in vacanza, molti di loro erano andati lì perché non riuscivano a trovare lavoro, insomma, in Italia. Non sto parlando solo di lavori più semplici, spesso molti di loro sono persone che vengono fuori da sistemi universitari che non gli permettono di trovare nulla dopo, insomma. È un fenomeno però nascosto, tu dici nel testo, vero? Sì, è un fenomeno nascosto perché, infatti io dico, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma se ne vanno tutti, perché è una migrazione molto lenta in realtà, non è una migrazione di massa, è una migrazione lenta ma consistente, e che quindi fa meno notizia dell'immigrazione che invece è di massa. E chi vuole rimanere, ma come fa? Ha le mani legate come Andromeda, metti nella valigia la collera e scappa da Malinconia. C'è anche un po' di rabbia in questa fuga? È un verso amaro. La rabbia, a un certo punto dico, guarda, non si può più combattere. Quando non c'è più la possibilità di combattere nella tua vita e ti sembra di essere davvero Don Chisciotte contro i mulini a vento, non c'è altra soluzione che, insomma, andare da un'altra parte. E te lo dico in quanto nipote di emigranti che sono andati tutti via nel dopoguerra proprio per questa mancanza di possibilità. Insomma, chi va via non sempre va via col sorriso sulle labbra di chi vuole vedere un'altra nazione e lecitamente può farlo. Però ci sono quelli che in qualche modo sono legati alla propria nazione e non avendo alcuna possibilità in un sistema poco meritocratico, poco attento, dove si taglia sempre dalle parti sbagliate, dalle parti meno appropriate, a loro non rimane altro che andare via, perché hanno le mani legate qui in Italia. Ma cosa suggerisci tu, Michele? Andar via o restare qui e lottare per cambiare le cose? Io sarei sempre per lottare e cambiare le cose in quanto sognatore, però quando il sogno diventa un incubo non c'è altra possibilità che andare via. Io penso che, insomma, bisogna misurarsi con le possibilità, bisogna misurarsi con le proprie esigenze e la propria vita. Se la vita ti permette di avere ancora margine per combattere e cambiare le cose, bene, si combatte, si cambiano le cose, ma quando le prospettive sono diverse, quando in realtà non ti rimane altro da fare che andar via, non si può fare altro. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.caparezza.com.